questa puntata di Voyager. Che fine hanno fatto le Las Ketchup? Cantautrici o un semplice condimento? In esclusiva per Voyager abbiamo raccolto la testimonianza di una loro componente e pare ci siano sconvolgenti verità. Cosa sono i Chihuahua? Cani? Mostri mitologici? Qual è la loro funzione? Insieme alla troupe di Voyager vi mostreremo i recenti studi fatti su queste creature. E ancora, in quale anno è stata scoperta l'acqua calda? I Templari hanno contribuito a questa scoperta? Ci recheremo in Tibet, dove vive l'ultimo Templare sulla Terra. Esistono gli alieni? Cosa li spinge a percorrere milioni e milioni di chilometri? Perché visitano l'Area 51? L'Area 51 è un Luna Park segreto? Abbiamo interrogato un alieno che ci fornirà qualche informazione sull'Area 51. Matt Groening, creatore dei Simpson, si è ispirato a Galeazzi per disegnare Homer. Fantascienza o realtà? Voyager ha condotto questa ricerca e ve la mostreremo in anteprima assoluta. Insieme a Voyager vi sveleremo una nuova profezia, pronunciata dal figlio del salumiere della sorella del pronipote di Nostradamus, che ha annunciato, in anteprima per Voyager, la fine del mondo nel 2030. I Maya avevano previsto anche questo. Insieme a filmati e testimonianze vi descriveremo questa sconvolgente profezia. Supercalifragilisticexpialidocious. Cosa significa? Può sembrare spaventoso? Se lo dici forte avrai davvero un successo strepitoso? Voyager ha condotto una ricerca anche su questo e abbiamo scoperto si tratti di un potente anatema.